Continuiamo a parlare di crisi climatica e dopo aver analizzato i punti critici dell'accordo di COP26 cerchiamo di capire quali sono le prospettive future. Per farlo siamo al telefono con Marika Di Pierri, giornalista, ricercatrice e cofondatrice del Centro di Documentazione sui Conflitti Ambientali. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora Marika, una prima domanda molto aperta: quali sono le prospettive dopo l'accordo che da più parti viene definito deludente di COP26? Le prospettive intanto capiamo per chi. Per la governance le prospettive saranno riunirsi l'anno prossimo, come sicuramente avrete detto nel corso della puntata. Ora ogni anno si rivedranno gli impegni, quindi entro il 2022 si aspetta che gli stati si impegnino a fare qualcosa di più. Chiaramente quello che è avvenuto fino ad adesso nelle ultime 26 COP, ma anche da Parigi in poi, non lascia molto ottimismo. Di certo dovremo guardare che cosa avviene. Per quanto riguarda noi, ovvero il resto del mondo, gli attivisti, gli scienziati, tutti coloro che si battono per politiche effettivamente immediate, efficaci e radicali, e resta da dare battaglia, quindi senz'altro continueranno le mobilitazioni e riprenderanno anche con forza dopo questa pausa dovuta alla pandemia, e poi si svilupperà anche sempre di più questo filone che ultimamente è molto importante, che è quello delle azioni legali. Quindi in molti paesi la società civile sta portando in tribunale gli stati, ma anche le imprese, proprio per chiedere ai giudici di riconoscere che sono responsabili di inazione climatica e che, non agendo contro i cambiamenti climatici, di fatto violano i diritti umani. In Europa ci sono stati moltissimi esempi non solo di cause intentate ma anche di vittorie molto importanti. Pensiamo a quello che è avvenuto in Olanda, in Francia, in Germania, in Belgio, in Irlanda e della volta anche dell'Italia. Quindi la notizia è che anche nel nostro paese l'atto di citazione è stato depositato e stiamo per portare in tribunale lo Stato italiano affinché si assuma le sue responsabilità in ambito climatico. Proprio su questo prendo spunto da un'osservazione che ha fatto ieri il ministro alla transizione ecologica Cingolani, mettendo in discussione un po' anche l'impianto di COP26, in particolare questo meccanismo per cui l'accordo deve essere, come dire, unanime, quindi si va sempre al ribasso, però appunto alcuni paesi che magari sono più ambiziosi rispetto a quello che risulta dalle COP26 potrebbero fare di più. Ci potrebbe essere un contrasto ai cambiamenti climatici a più velocità? Sì, la nostra impressione è che di fatto anche questa opposizione, che va molto di moda negli ultimi anni, per cui assistiamo, no, dichiarazioni degli Stati Uniti ma anche dei paesi industrializzati dell'Europa che riguardano il ruolo della Cina o dell'India come zavorre alle negoziazioni, sono un po' un alibi, sono un po' uno scaricabarile che fa comodo a tutti. Questo perché di fondo, se andiamo a vedere quelli che sono gli impegni di riduzione anche dei paesi che raccontano di essere un esempio dal punto di vista climatico, sono tutt'altro che sufficienti. Io vi invito a visitare un sito interessantissimo, un centro studi che si chiama Climate Action Tracker, che valuta proprio gli impegni dei singoli stati. Ecco, non ce n'è uno al mondo che attualmente abbia degli impegni compatibili con l'obiettivo del 1,5 gradi. Quindi si fa un gran parlare. È vero che alcuni paesi si dovrebbero impegnare a varare delle politiche più ambiziose, ma questo non avviene. Quindi dire che la colpa è dell'India che frena sul carbone o che la colpa è della Cina è una parte della verità, ovvero sicuramente c'è un grande problema dovuto all'approvvigionamento energetico di questi colossi, ma dall'altra parte chi ha maggiori responsabilità storiche non sta facendo assolutamente nulla, non sta facendo la sua parte. Quindi io partirei da questo, partirei dall'imporre ai governi che più sono di quei paesi che più hanno emesso in atmosfera di agire intanto, senza aspettare appunto che ci sia un consenso unanime. Quindi al ministro Cingolani direi: benissimo, ma allora l'Italia finalmente vari delle politiche climatiche all'altezza, perché l'Italia ha delle politiche climatiche ridicole, l'Italia ha dei target che sono ben al di sotto di quello che raccomanda la scienza, quindi sarà il caso che agisca di conseguenza. Facciamogli arrivare questo messaggio. Proprio su questo un'ultima battuta: l'Europa, come dire, si appresta a varare il Green Deal, sarà un'occasione o è greenwashing? Lo scopriremo, insomma, quando leggeremo il testo. Sicuramente l'Europa ha fatto un passo avanti aumentando quelli che dovrebbero essere i target di riduzione al 2030, però il problema è che tutti i paesi si devono adeguare, ad esempio il nostro non si è ancora adeguato, e soprattutto ci sono altre questioni che riguardano per esempio tutto il tema delle compensazioni. La verità è che bisognerebbe azzerare le emissioni, non azzerare le emissioni nette, ovvero continuare provare ad estrarre, ma poi compensare attraverso dei progetti, ad esempio, di cattura della CO2. Questo è un altro dei punti importanti che abbiamo ribadito anche durante la COP, cioè c'è bisogno di non trovare altre occasioni speculative, mercati di carbonio, eccetera, eccetera, ma bisogna fare una sola cosa: smettere di emettere, tagliare i combustibili fossili, tagliare i sussidi. Calcoliamo che ancora oggi sono 5,9 trilioni di euro l'anno quelli che sovvenzionano carbone, petrolio e gas, e solo così si potrà dire che il greenwashing è ormai un ricordo del passato. Grazie mille. Grazie a voi. Buon lavoro. Buon lavoro.